La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio e buon inizio settimana da Oscar Giannino. Benvenuti alla versione di Oscar. Oggi lunedì 4 novembre e essendo il 4 novembre la festa delle Forze Armate, da parte mia ho un saluto, un abbraccio caloroso a tutti coloro che sono in ascolto o ci ascoltano per podcast, che vestono la divisa, ai loro familiari. E io non c'è alcuna retorica in questo. Chi sceglie in un modello in cui non c'è più la coscrizione obbligatoria ma professionalmente di vestire la divisa, in anni in cui l'Italia manda poi in teatri operativi molto difficili i ragazzi italiani con la divisa e molti ci lasciano la pelle, pensiamo tutti almeno un giorno l'anno, per chi è meno attaccato, almeno un giorno l'anno a questa tradizione, che cosa vuol dire mettere in campo la propria vita con una divisa che è il simbolo della Repubblica e a tutela di noi tutti, nel pieno rispetto dell'articolo 11 di chi rifiuta i conflitti eccetera eccetera. Ma il mondo è complesso, come sapete, quindi dall'Afghanistan all'Iraq al Libano e così via, i nostri poi sono chiamati in operazioni internazionali molto pesanti, e quindi un pensiero a tutti loro. Allora, iniziamo la settimana come sempre tentando di stare su alcuni dei punti più delicati del rapporto tra Stato e noi contribuenti, sapendo che ci sono settimane delicate, c'è la legge di stabilità e tutte le solite vicende che sapete, e oggi analizziamo un punto preciso che a mio giudizio è uno scandalo intollerabile, ma sono curioso di sapere, se chiamate al numero verde 800 24 00 24, cosa ne pensate voi. Stiamo parlando della IRAP in capo a persone fisiche e a persone fisiche che non hanno una propria organizzazione funzionale nel dare, organizzare e prestare i loro servizi professionali. Quindi, che ne so, un avvocato che lavora in uno studio di un altro avvocato e che magari ha solo per alcuni periodi di tempo una segretaria part time, stiamo parlando di artigiani che hanno ditte individuali in cui lavorano da soli e non con particolari beni strumentali di particolare rilievo, stiamo parlando di migliaia e migliaia e migliaia di soggetti all'IRAP. Che cosa avviene? Avviene che nel 2001, 13 anni fa, 12 e mezzo, insomma 13 anni fa, la Corte Costituzionale stabilisce che le persone fisiche in queste particolari con queste particolari caratteristiche non sono soggette a pagare l'IRAP, quelle prive, persone fisiche prive di organizzazione funzionale. Che cosa capita da allora? Capita che l'Agenzia delle Entrate mantiene in piedi il contenzioso per incassare le imposte per 13 anni. Quindi, per ottenere spessissimo il rispetto del diritto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale, bisogna mettere sul tavolo i soldi per il contenzioso ed arrivare fino a che non viene poi riconosciuto. Molte sentenze riconoscono ovviamente quello che la Corte Costituzionale ha stabilito, ma nel frattempo una norma di legge precisa e inequivocabile non c'è. La faccio breve, arriviamo al 2012, c'è una norma di legge che inizia a prevedere un fondo di 682 milioni perché nel triennio successivo si coprisse il mancato introito da questa imposta che, ripeto, è incostituzionale da 11 anni. Ebbene, il fondo di 682 milioni non c'è più. E il tema su cui oggi il Sole 24 Ore è quello del lunedì, ha dedicato l'apertura, ha trovato un commento di Enrico De Mita, sdegnato, e mi sembra giusto, e tentiamo di capire, di spiegare meglio questa condizione, di capire che cosa può avvenire, che cosa si può fare per tutti questi contribuenti. E con noi, come un mese fa, e ve l'ho detto che l'avrei richiamato spesso per la stima che ne ho come competente tecnico sulle questioni tributarie e finanziarie, Enrico Zanetti. Enrico Zanetti è l'ex direttore di Eutecne, il giornale online dei commercialisti, e con le ultime elezioni ha portato poi la sua competenza, che è una delle più elevate, in Parlamento, dove è davvero uno di quelli che ci capisce di più, è deputato di Scelta Civica. Buongiorno e grazie di essere con noi, onorevole Zanetti. Buon pomeriggio a tutti. Allora, non so se ho riassunto bene la faccenda, ma che cosa succede adesso per chi si trova in queste condizioni? Deve pagare, non deve pagare, continuerà ad andare in contenzioso, si rifinanzia il fondo con la legge di stabilità? Lei che prevede? Ci dica un pochino che cosa pensa di tutta questa materia che va avanti da anni. Ma allora, è una delle tante manifestazioni della incapacità legislativa e decisionale italiana, proprio perché sono tanti anni che si trascina e necessiterebbe di un intervento legislativo molto semplice, finalizzato a individuare dei paletti sufficientemente chiari, anche se è evidente che un po' di flessibilità serve, ma dei paletti chiari per dire: ok, sei talmente piccolo che l'IRAP non la paghi, piccolo professionista, piccolo imprenditore, non lo sei invece abbastanza grande, la paghi. Invece che fare questi interventi, che cosa si fa? Nella legge di stabilità dell'anno scorso si crea un fondo destinato a coprire questo tipo di intervento legislativo, che poi però non si va a fare, e a distanza di un anno questo fondo non si svuota. E questo purtroppo è anche colpa di un rapporto, e lo dice molto bene in quell'articolo che richiamava e che si può leggere oggi sul Sole 24 Ore, lo dice molto bene Enrico De Mita, è colpa di un rapporto sempre più malato anche tra il livello legislativo inteso come Parlamento, inteso anche come azione del governo, e il livello burocratico degli uffici, a cui sempre di più viene demandata in concreto l'azione legislativa. Scrivere una legge, individuare dei presupposti, implica comunque un minimo di conoscenze tecniche. È chiaro che se in Parlamento tendenzialmente si preferisce scrivere: viene data delega a, facciamo un fondo e poi ci pensate voi, inteso come apparato ministeriale, che parliamoci chiaro non vuol dire il sottosegretario, ma vuol dire i capi ufficio di turno, e dopo ci si ritrova in queste situazioni ragionieristiche dove il fondo creato viene riutilizzato a distanza di un anno per coprire altre cose, e tutto sommato non ci si interessa ad agire normativamente. Perché anche la norma che nel 2012 la legge di stabilità aveva introdotto questo fondo di 682 milioni demandava a un decreto attuativo che puntualmente non c'è stato. Adesso in teoria dovremmo attenderci l'individuazione appunto dei perimetri entro cui non si deve pagare l'IRAP, oltre il quale invece si deve pagare, con i decreti delegati della legge delega fiscale, perché nella legge delega fiscale è stato di nuovo inserito questo punto, ma ovviamente bisogna poi attendere i decreti delegati che vengono scritti sempre poi all'interno dei ministeri, quando, ripeto, i paletti anche posti dalla Cassazione in questi tanti anni di inutili contenziosi già si conoscono e basterebbe andarli a richiamare. Ma addirittura, ripeto, nel 97, quando è stata introdotta questa imposta astrusa che è l'IRAP, è stata sostituita un'altra imposta che si chiamava ILOR, la quale già in precedenza si applicava soltanto alle imprese di maggiori dimensioni ed esentava sostanzialmente coloro i quali lavorano prevalentemente con l'impegno proprio e al massimo dei collaboratori familiari. Già questa locuzione normativa potrebbe andare benissimo per riproporre l'esclusione IRAP che già c'era ai tempi dell'ILOR. E per quanto riguarda i professionisti che dall'ILOR erano completamente esclusi e che invece con l'IRAP sono entrati anche loro in gioco, basterebbe, ripeto, come veniva ricordato, andarsi a guardare cosa ha già avuto modo di dire la Cassazione. Il punto non è tanto dire se guadagni più di tot o guadagni meno di tot, perché il guadagno non è un elemento di organizzazione, è un elemento della tua capacità. Uno può avere organizzazione zero e riesce a guadagnare molto perché deve pagare l'IRAP, non la deve pagare. Uno può guadagnare invece meno di lui, ma per farlo ha bisogno di avere 4, 5, 7 collaboratori che in batteria vanno a fare pratiche ripetitive. E che cosa è avvenuto? In questi anni che cosa è avvenuto? Spesso l'Agenzia delle Entrate, invece di, poiché non c'era una norma che prendeva i paletti posti dalla Cassazione di identificare che cosa davvero voglia dire questa organizzazione funzionale che deve mancare per non essere soggetto d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provava comunque e quindi bisognava andare in contenzioso. Assolutamente, ma fino alla Cassazione sono tantissime le sentenze di Cassazione. In questo caso devo dire, io non sono mai troppo tenero rispetto ad altri nel giudicare l'operato dell'Agenzia delle Entrate, però in questo caso devo dire che in assenza effettivamente di una definizione almeno minima a livello normativo è difficile. Per evitare che qualcuno poi chiamasse l'Agenzia delle Entrate a rispondere di un danno erariale, dice noi nel dubbio procediamo. No, in questo caso è difficile, cioè, ci sono veramente, si sprecano i casi in cui francamente l'operato dell'Agenzia delle Entrate assume dei presupposti di burocratese ingiustificato. In questo caso devo dire il funzionario dell'agenzia, in assenza totale di paletti normativi, è chiaro, procede, però resta il fatto che io ricordo che sono più o meno 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 600 mila le persone fisiche che sono soggette all'IRAP, danno un bel gettito, insomma danno 2 miliardi e mezzo su oltre 30 miliardi, però capite, per tantissimi il dubbio è una cosa che poi porta a pagare una cosa che da 13 anni è incostituzionale. Adesso abbiamo le informazioni stradali, poi torniamo con Zanetti per capire che cosa può avvenire a questo punto. la versione di Oscar. Eccoci qua, 16:46, 56 secondi, siamo tornati in diretta sulla 24, la versione di Oscar. E allora, Zanetti, Enrico Zanetti diceva, a questo punto l'unica è aspettare l'approvazione generale della legge delega sulla materia, la delega fiscale, che è passato un ramo, deve andare all'altro e così via. Nel frattempo abbiamo anche un ascoltatore, Claudio da Brescia. Prego Claudio. Da Firenze, comunque va bene lo stesso. Da Firenze, mi avevano detto Brescia, mi prendo l'errore e mi scuso. Buonasera. Dunque, io infatti me la lasciavo, vado solo prima perché mi ricordo Lilor, che essendo rappresentante a Centri di Commercio, sì. Nell'88 mi arrivò un verbale di 5 milioni di lire dell'epoca, che dovevo dare allo Stato. Il commercialista mi consigliò saggiamente di pagare per evitare possibili interventi e poi fare ricorso. Si fece ricorso, si è vinto, però il ridicolo da questo, c'era un'azione di sentenze che avevano così sentenziato che noi rappresentanti eravamo esclusi da lì. E questo succede adesso con l'IRAP, perché il commercialista è il solito, mi dice paghiamo, poi si fa ricorso, però dice io per sicurezza ti faccio pagare. Ed è andata bene? No, per ora non lo so perché stiamo aspettando i risultati, perché ecco. L'IRAP andò bene e fece i soldi. Ma il Sileno ha dovuto prendere un prestito per pagare questi 5 milioni. Già. Nessuno mi ha reso gli interessi. Già. Addirittura mi torsero la notifica. Cioè, sarà 5 milioni e 24 mila lire. 24 mila della notifica. Lo Stato ragiona così. È un po' asimmetrico sugli interessi di mora, per così dire. Sentiamo ancora Stefano, che ci chiama da Padova. Spero di non sbagliare. No, corretto. Signor Giannino, buonasera. Buonasera. Radioascoltatori. Io volevo fare semplicemente raccontarle un po' quella che è stata la mia esperienza. Io sono un medico, un libero professionista, lavoro solo per strutture ospedaliere in qualità di professionista, quindi non ho struttura. Se non ci sono io, il mio lavoro non va avanti. E lei paga o non paga? Io al momento non pago, però ho fatto un ricorso. Al ricorso mi hanno risposto praticamente dicendo siccome il dottor Stefano fattura tanto, può pagare anche l'IRAP. Ho detto, allora fatemi pagare anche la tassa del vicino, dei rifiuti del vicino, visto che guadagno tanto. E questa è stata la risposta del mio ricorso. Ma chi è stato a pronunciarsi così tecnicamente? Oddio, il mio commercialista ha fatto ricorso al... A chi doveva... Quindi la commissione tributaria è andato, sì. Alla commissione tributaria, che ha detto che siccome io fatturo tanto posso pagare anche l'IRAP, cioè, una follia, però questo... Grazie per questa testimonianza. Onorevole Zanetti, sente che cosa avviene poi nella realtà anche del contenzioso? No, ma io la conosco bene questa realtà, anche perché ho anche avuto modo di assistere in contenzioso tante situazioni di questo tipo, spesso peraltro con soddisfazione, non tanto perché sono bravo io, ma perché oggettivamente l'IRAP non è dovuta. Quindi sono situazioni che conosco bene, non a caso, si ricordo, ho fatto proprio l'esempio del dire non è che se uno guadagna tanto la deve pagare, perché non è l'unico caso che sento che si vede rispondere in questi termini. Cioè, anche per spiegare agli ascoltatori che magari non sono liberi professionisti o imprenditori, cioè perché viene chiesta una partita IVA sul suo reddito di lavoro, anche l'IRAP oltre alle imposte sul reddito, come vengono chieste ai lavoratori dipendenti? Viene chiesta nella misura in cui si presume che il suo lavoro, essendo organizzato, possa prescindere anche da lui e quindi avere uno sviluppo ulteriore e tra l'altro anche rivendibile sul mercato un domani sotto forma di cessione di studio professionale piuttosto che d'azienda e quant'altro, quindi un valore aggiunto sottostante al reddito. Ma quando questa organizzazione manca, perché il soggetto è da solo o al massimo ha un aiuto di tipo prettamente esecutivo da parte di una segretaria, è evidente che manca questo elemento aggiuntivo, e a quel punto che uno guadagni tanto o poco è irrilevante, non è giusto che abbia questa tassazione ulteriore, ha già la progressività IRPEF come qualunque grande alto dirigente, alto manager, non c'è guadagna redditi di lavoro dipendente. L'impressione che si è fatta in questi mesi in Parlamento è che in questo caso potremmo fare tanti altri casi delle asimmetrie tributarie da correggere, ma in questo caso di cui parliamo ci sono centinaia di migliaia di contribuenti in ballo. Secondo lei qual è? C'è una diffidenza culturale? C'è una mancata comprensione tecnica dei problemi? Lei ha già detto un po' la comprensione tecnica, ma quello riguardava scrivere la legge. Perché non si capisce che una cosa di questo tipo, i fondi stanziati che poi spariscono, sono un anno che la politica si fa da solo? È possibile che in Parlamento una cosa così non si capisca, che ci vuole un provvedimento d'urgenza visto che c'è sentenza della Corte e poi un fior di giurisprudenza della Corte di Cassazione? Perché purtroppo Purtroppo siamo in mano ai calcoli ragionieristici sulle manovre, dove conta, ma basta vedere il dibattito di sti giorni, dove sono che si dicono da un lato che il prossimo anno per effetto della legge di stabilità si pagherà 1 miliardo di tasse in più, dall'altra risponde il governo, ed è vero, dall'altra risponde il governo sì, ma saranno le banche a pagarle, le famiglie pagheranno 1 miliardo in meno, ed è vero anche questo, però siamo al più o meno 1 miliardo in un contesto dove non si assista nemmeno una riforma strutturale nel rapporto tra economia e Stato. Cioè è un dibattito che è figlio proprio di questa centralità del aggiungi 300 milioni di qua, togli 200 milioni di là, e poi spesso non ti rendi conto che sono pure numeri scritti sull'acqua, perché è vero che nominalmente introdurre questa norma sull'IRAP di esenzione fino a una certa soglia nominalmente potrebbe avere un costo elevato e quindi se togli il fondo non è coperta, ma realmente non è così, perché gran parte dei microsoggetti, nell'assoluta incertezza che c'è oggi, già adesso quell'IRAP o non la pagano o dopo che l'hanno pagata vincono i ricorsi e se la fanno dare indietro. Quindi sono risorse che realmente lo Stato alla fine a titolo definitivo non ha, e produce tra l'altro complicazioni, rabbia, rancori, livore nei confronti del fisco italiano in modo del tutto inutile. Però non si riesce ad andare oltre fino a quando ogni volta che si introduce una norma si rifiuta di ragionare della situazione reale a 360 gradi e si china la testa esclusivamente sul conteggio dal rigo RF vatte la pesca per 35 uguale 100. Questa è una cosa che dobbiamo superare, ma per superarla bisogna anche riportare un po' più alla città, al paese, il Ministero dell'Economia, che ormai negli ultimi 10 anni è diventato un qualcosa in cui la stessa politica, come dire, è a malapena accettata come un male necessario. Lei lo sa forse che io sono completamente d'accordo con la tesi che sono i tecnici a scrivere i provvedimenti che guardano solo ai saldi, non c'è alcuna struttura in grado di valutare l'effetto sull'impatto sull'economia reale, di cosa si fa di qua e di là, cioè questo è un problema enorme che viene prima anche dalle poste di minor spesa o di più imposte. Ma ce lo dobbiamo porre, sì. Perché è il problema che poi porta a cascata tutti gli altri, ce lo dobbiamo porre, per porlo però dobbiamo mettere in discussione alcuni poteri che oggi si sono un po' consolidati all'interno di un Ministero dell'Economia dove, lo ripeto, dal 2001 quando è stato creato, tolto Tremonti che è comunque una figura particolare, fateci caso, non abbiamo mai più avuto ministri politici, Padoa-Schioppa, Grilli, Saccomanni, no, la così. Politica lì dentro è a malapena tollerata, ma una politica competente invece è la giusta sintesi, perché competente sia chiaro, ma è la giusta sintesi tra l'ottimo lavoro che quei tecnici adeguatamente guidati possono fare e le esigenze di carattere generale che vanno oltre il più uno, meno due, meno tre. Senta, ma con la legge di stabilità che balla e con questa tempesta politica pressoché quotidiana tra case cancellieri, Berlusconi e così via, la delega fiscale secondo lei va in porto? Beh, la delega fiscale secondo me il secondo passaggio al Senato fa tempo a farlo, poi però c'è tutta la partita dei decreti delegati. Esatto. E bisogna vedere se un governo che dovesse essere diverso la utilizzerebbe con la stessa rapidità. Esatto. E volontà. E ce ne siamo, e ce ne siamo. Intanto io allora la ringrazio, cari ascoltatori, avete capito? Da anni, incertezza per centinaia di migliaia di contribuenti, lo Stato stabilisce una cosa da una parte e non la fa dall'altra, e però ti chiede di pagare nel dubbio e poi di pagare nel contenzioso e poi eccetera eccetera eccetera. Allora voi direte, sì ma noi poveri lavoratori dipendenti, avete ragione, il problema è che ci truffano tutti in maniera diversa. Per questo vi chiedo di continuare a mandarci lettere, la versione di Oscar, per chiamarvi e far parlare voi, ciascuno per la propria parte di quello che subite ingiustamente. A domani e continuate su Radio 24.